Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jimes di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Odile portò Jim al suo albergo. Per strada comprarono qualcosa per la cena e i pacchetti bianchi e grigi del pizzicagnolo e del fruttivendolo le gonfiarono le tasche. Faceva freddo. «Adesso noi fare grande fuoco», disse lei. Si spogliò, si sedette per terra, nuda, con le gambe aperte, i piedi appoggiati ai due stipiti del camino, afferrò a piene mani i pezzi di carbone che si trovavano nei secchi, li fracassò allegramente gli uni contro gli altri, parlando con loro. Cosparse il tappeto di schegge nere e accese, in men che non si dica, un magnifico fuoco crepitante. Poiché nel far questo si era strofinata le mani addosso, era tutta imbrattata di nero. Chiese a Jim di spegnere la luce e giocò nel chiarore del fuoco a riscaldarsi da ogni lato, accostandosi tanto che Jim temette che si bruciasse. Poi spazzò le schegge di carbone e corse, nuda com'era, nella stanza da bagno del piano, alla porta accanto. Ritornò fresca, l'innocenza stessa. Si infilò a letto, chiamò Jim e si mise d'impegno a fargli dimenticare il suo ex marito. «Che importanza, pensava Jim, assume per lei il fatto di accendere un fuoco. Fa tutte le cose fino in fondo, una per una. Jules sostiene che non abbia anima, come la sua quasi omonima Ondine. Com'è riposante». Jim e Jules portarono Lucie e Odile al bal de Cazard. Lucie era vestita da sacerdotessa e Odile svestita da selvaggia sotto una sciarpa di rafia. Durante la prima ora Odile, che non aveva mai sognato una simile festa, rimase aggrappata al braccio di Jim, intimidita, senza credere ai suoi occhi. Poi vide delle donne che ognuna a cavalcioni sulle spalle di un uomo dominavano la folla. Allora si arrampicò su quelle di Jim, che la portò in giro in mezzo alla calca sempre più fitta, sentendo strette contro le sue orecchie le cosce di lei. Odile si animò e cominciò a parlare in continuazione. Jim vide due giovanotti che parlavano fra loro e avevano notato Odile. Lei probabilmente fece loro dei segni perché quelli si avvicinarono e si presentarono a Jim. Uno era americano e l'altro principe di una provincia russa fertile di principi. Entrambi avevano bei costumi e bei muscoli. Si offrirono di portare a spasso Odile, se Jim era stanco. «Tu che ne dici, Odile?» fece Jim. «Io contentissimo avere i tre più grandissimi cavalli del ballo», disse Odile, «e poter cambiare quando mi piace». Passò dunque sulle spalle dell'americano, poi del russo, che la portarono in tutti gli angoli in cui volle andare. Ogni tanto tornava a fare un giro sulle spalle di Jim. «Ha scelto bene», pensò Jim, e se ne tornò da Jules e da Lucie. Entrarono tutti e tre nello spazio riservato a un atelier dove un gruppo di persone assisteva a un'esibizione di lesbiche per terra. Lucie dapprima non capì, pensando si trattasse di una specie di lotta fra donne nude, ma quando guardò meglio ebbe un gemito e disse a Jim e Jules che era meglio allontanarsi di lì. Già le orchestre sparavano le marce famose e aveva inizio la grande sfilata di carri. Le nudità del corteo dettero l'esempio, si cominciò a strappare i costumi di dosso alla gente. L'americano e il russo ebbero il loro da fare per proteggere l'esiguo perizoma di Odile, la cui sciarpa di rafia era ormai lontana. C'erano quella sera tutte le modelle di Parigi, le emancipate, qualche moglie di artista e delle curiose come Lucie, che non prendevano una parte attiva alla festa. Lucie attirava gli sguardi, ma solo una volta Jules e Jim avevano dovuto fermare una mano che cercava di raggiungerla. Lei era contenta di vivere tutto questo insieme a loro. Aveva un sorriso stupito. Le due cavalcature di Odile vennero senza di lei a chiedere cortesemente a Jim di poterla tenere a cena con loro e con altri amici. «Come vuole lei», disse Jim. «Fate attenzione, però il vino le fa male». «Capito», disse il russo. «Non vogliamo guastare la serata né a lei né a noi». «Né a voi», aggiunse l'americano. Lucie, Jules e Jim fecero una cena leggera e tranquilla. Lucie era in pensiero per Odile. «Fa solo quello che vuole ed è al sicuro dappertutto», disse Jules. Jim era della stessa opinione. Arrivò il momento del concorso di bellezza. Donne nude, per la maggior parte modelle, truccate e con il corpo incipriato, comparivano una alla volta per un quarto di minuto su una pedana che sporgeva dalla balconata. L'intensità delle ovazioni esprimeva il giudizio della folla. Jim scorse da lontano con sorpresa Odile nella fila di quelle che aspettavano il loro turno. Si avvicinò senza farsi vedere. Lei aveva un'espressione dura che gliela rendeva estranea. Si era tenuta il minuscolo perizoma. Glielo strapparono, era la regola, e la spinsero sulla pedana sotto l'accecante fascio di luce. Lei accennò il gesto della Venere pudica. Una mano scostò la sua mano, lei la lasciò fare. Rimase lì un momento con tutta la sua energia tesa a vivere quell'esperienza. La sua bellezza finemente modellata faceva meno effetto in quel luogo. Ci volevano forme imponenti per quella messa in scena grossolana. Non le diedero il tempo di attaccare la sua canzone. Scoppiò un'ovazione nella quale Jim riconobbe la voce del russo. «Ha un bel coraggio», diceva Jules. Lucy provava pena per lei. Jim pensava «Quel corpo pieno di grazia, quel falso angelo. Potrei perderla, lei perderebbe me, senza battere ciglio». Ci furono scene di ubriachezza, urla e crisi di nervi. Le danze ripresero, alcune coppie se ne andavano. Jim fece il giro della sala sperando quasi di non trovare Odile. Non la trovò. «Che impari», pensò. Lucy ne fu rattristata. Jules aveva passato una serata felice accanto a lei. La riaccompagnarono a casa. La sera dopo, al caffè, Odile andò a sedersi accanto a Jim. «Perché tu avere lasciato me andare via con l'altro?» «Quale Odile?» «Il russo!» «Perché tu lo desideravi, Odile!» «Io desiderare perché tu non impedire!» «Io mai impedire te, Odile!» «Allora tu non amare me!» «Io amare te a modo mio!» «Modo tuo ho fatto me andare a letto con lui!» «Che cosa pensavi?» «Io pensavo tu non ritornare prima di 8 giorni!» «Lui molto bravo, fare bene l'amore, molto molto bene!» «Perché tu non rimasta con lui?» «E io trovare basta così. Io avere voglia di rivedere mia stanza». E gli affidò la sua bottiglia di latte. Doveva rifiutare? No, perché aveva voglia di conoscere il seguito. Che cosa avrebbe provato se davanti a lui avesse affidato a un altro la bottiglia del latte, cosa che non aveva mai fatto? Lei non gli dava che una parte di sé, ma lui faceva lo stesso. E se avesse desiderato un amante dispotico e geloso, avrebbe potuto trovarselo facilmente. Lui, Jim, era geloso di quel russo, ma lasciava Odile libera come voleva esserlo lui stesso. Anche per questo lei tornava da lui. Nella sua stanza, lei gli mostrò l'elegante biglietto da visita del russo, lo gettò nel vaso da notte che, ben lavato, le serviva da scrigno per i bigliettini amorosi e gli indirizzi, e propose a Jim seria: «Cancelliamo il russo?» Lo cancellarono. Odile partì per un viaggio in auto con certi suoi compatrioti. «Forse per sempre», diceva lei. I viaggi di Lucy. Lucy e Jim fecero un viaggio da soli. Partirono all'avventura, senza mete precise. Jules andò ad accompagnarli al treno e portò loro un bel cestino di frutta per il viaggio. In una città della Bretagna scoprirono un'antica locanda, a 2 passi dalla cattedrale, proprio davanti alla facciata. C'era su in alto una camera che sporgeva sul vuoto, sostenuta da 2 travi a squadra, e sembrava slanciarsi verso il grande rosone. Fu la camera di Lucy. Quella di Jim era proprio sotto. Ci stette di rado. I rintocchi del campanone facevano loro l'effetto di docce vibranti. In una giornata di gran caldo, fecero una gita in bicicletta fino a una chiesetta deserta situata su un poggio, circondata da alberi e dal suo fresco cimitero. Lì passeggiarono tenendosi per mano e leggendo commoventi epigrafi sulle tombe di coppie che sembravano essere state serene e unite. Si sedettero e tacquero. Jim non riusciva a lasciare quel luogo. Gli sarebbe piaciuto essere lì sdraiato in una tomba accanto a Lucy. Venne però il momento di rientrare. La strada era lunga, a tratti malagevole. Lucy, distribuendo le sue forze e facendo delle soste, fu all'altezza della situazione. Era meno fragile di quanto Jim temesse. Ebbe però un breve attacco di emicrania. Jim, dopo sforzi prolungati, ne aveva di peggiori. Pensava, Se avessimo dei figli, noi due sarebbero alti, magri e soffrirebbero di emicranie. Fecero delle lente passeggiate a piedi nei boschi, portando con sé la colazione che lui si disponeva sul moschio. Jim aveva in spalla il fucile, non se ne serviva. Si divertivano a immaginare e a organizzare una casa di campagna ideale, che sarebbe stata certo il loro focolare se mai ne avessero avuto uno, fin nei minimi dettagli, i mobili, il giardino. Lucie la costruiva nelle linee e nei colori, Jim solo nelle linee. Avevano una vera passione per gli oggetti di cuoio e se ne regalavano a vicenda. Andarono verso il sud. Jim portò Lucie a caccia sul mare in una barchetta a vela con un vecchio marinaio. Una bella caccia. Lucie era svelta quanto il più svelto degli uccelli. Jim provò pietà per i corpi che sanguinavano sul fondo della barca e smise di sparare. Lucie gli sorrise. Ci fu un lieve incidente e per qualche istante Jim temette di aver perso un occhio. Con l'altro poté vedere che Lucie, se fosse stato possibile, gli avrebbe dato uno dei suoi. Trovarono dietro a una foresta di pini una piccola comunità contadina. Una coppia, se era gradita a tutte le altre, poteva acquistare per una cifra modesta una casetta di legno nuovo, con due grandi letti ad alcova che facevano corpo con la travatura, Jim pensò al letto di Ulisse, un camino che tirava bene, un orto sabbioso che per le patate bastava. Il pesce che lì abbondava avrebbe completato la dieta. Jim desiderava proprio una vita semplice come quella, ma gli mancava l'energia per afferrarla al volo. Dell'amore, lui sì, temeva il lato fisico. Jim si sentiva con lei come con una sacerdotessa. Si chiedeva se avrebbe potuto amarla con costanza. Lei era la via stretta e sicura. Lui si sentiva dentro un bisogno di scalette, di rischi, e se lo rimproverava. Un giorno Lucie e Jim furono sorpresi da un uragano sul fiume. Il vento, la pioggia, la corrente erano contro di loro. Jim remava con tutte le sue forze, senza riuscire a far avanzare la barca. Lucie, che stava al timone, passò dietro di lui, prese il secondo paio di remi, si mise a remare con calma e seppe così bene regolare su quello di Jim il suo sforzo leggero, senza urtare una sola volta i suoi remi, che riuscirono a rientrare in porto. A volte parlavano di Jules. Con una lettera indirizzata a entrambi, Jules invitò Lucie ad andare a passare qualche giorno al mare anche con lui. «Sarebbe una buona cosa», disse Lucie, «se fossi sicura che non ha più quella sua idea». Jim desiderava che Lucie accettasse. Arrivò l'ultimo giorno. Avevano avuto un mese che era stato scolpito in loro dalle piccole cose perfette che avevano vissuto insieme. Si separarono con un nodo alla gola, eppure niente li costringeva a farlo. Il giorno prima di partire con Lucie, Jules disse a Jim: «Lucie e io faremo dei bagni di mare. Io ho le spalle e il petto... pelosi». Esitò a pronunciare la parola. «Ci sono donne a cui piace, ma a Lucie sicuramente no. Non voglio andare in un istituto. Ho incominciato a depilarmi da solo, ma non ci riesco. Jim, volete aiutarmi?» E tirò fuori di tasca un grosso vaso di pasta depilatoria. Jim si rese conto che Jules, che l'aveva spesso visto nudo sotto la doccia, gli aveva sempre nascosto il suo corpo. Jim trovò Jules tarchiato, squadrato come un legionario romano, con certi peli neri e ricciuti, diverso dalla snellezza e dalla levigatezza di Lucie, di Odile, dello stesso Jim, ma ben fatto. Perché Jules odiava il suo tipo e non voleva sposare la graziosa cugina che gli si offriva, che gli assomigliava e che avrebbe formato con lui una coppia ben assortita? Ma non era proprio perché Lucie gli era troppo sorella fisicamente che Jim esitava tanto a volerla per moglie. Jim depilò le spalle di Jules e la cosa lo divertì. Bisognava far sciogliere la pasta resinosa, spalmarla bene sui peli, lasciarla seccare un momento e strappare con un colpo secco. A poco le forme di Jules apparvero più nette. Quale sarebbe stata l'impressione di Lucie? Era impossibile, eppure Jim avrebbe voluto che Jules potesse conquistarla. Lucie e Jules trascorsero insieme una settimana serena. Jules fu riservato e Lucie gliene fu grata. Lei si lasciava asciugare i piedi da lui dopo il bagno. Jules poté stare al sole accanto a lei a torso nudo senza sentirsi a disagio. Per calmarsi andava a trovare una signorina bionda che lavorava in una casa di appuntamenti della città vicina e scrisse per Lucie delle nuove poesie. Lei espresse a Jules le sue preoccupazioni a proposito di Jim. Ammirava e temeva la sua libertà. «Quando Jim ha voglia di fare una cosa», disse Jules, «e nella misura in cui crede di non nuocere ad altri può sbagliarsi, la fa, per il piacere di farla e per ricavarne una lezione. Spera di pervenire un giorno alla saggezza». «Può durare molto?» disse Lucie. «Non possiamo saperlo», disse Jules. «Nemmeno lui lo sa, e può succedere un miracolo». «Ma insomma», disse un giorno Lucie, «avete tutta l'aria di considerarlo casto». «Certamente», disse Jules, «i veri passionali lo sono. Jim è più casto di me e della maggioranza degli uomini. L'ho visto restare dei mesi senza donne e senza cercarne. Non è uno capace di seguire una sconosciuta per strada. Ha la curiosità e il culto del carattere e non coltiva la voluttà per se stessa. Lina, nonostante le apparenze, non era un carattere. L'ha subito evitata. Voi, Lucie, siete un carattere. Anche Gertrude e Odile». Jules pensò, Magda era un mezzo carattere, per questo è toccata a me. «Voi siete un'unità, anche Jim lo è. Io muoio d'amore di volta in volta per i vostri piedi, i vostri capelli, le vostre labbra. Gli esseri diretti sentono l'insieme. Certi direbbero che Jim è un seduttore. Io dico che è un sedotto. Voi, Gertrude, Odile, l'avete scelto prima che lui scegliesse voi. O nello stesso momento», disse Lucie. Lucie andò poi a passare qualche giorno in montagna con un corteggiatore del suo paese di cui aveva mostrato a Jules e a Jim una fotografia. Jules pensava che lei non avesse con lui quella naturale intimità che aveva con Jim, ma che sarebbe potuto diventare pericoloso se mai Jim fosse uscito di scena. Lucie ritornò alla casa paterna. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.